Allora la parola alla professoressa. Ecco, allora io faccio un intervento di cui annuncio subito la diversità, secondo quanto era stato detto prima, rispetto a quel che si è detto precedentemente. Quello che io posso fare è una informazione su quello che è lo stato delle fonti riguardanti visite pastorali del Veneto per le città di Verona, Vicenza, Padova e Treviso relativamente al 400 e in più alcune considerazioni che sono soprattutto di tipo problematico per quella che è la lettura o la possibile utilizzazione di queste fonti, avvisando peraltro già che queste fonti sono non edite integralmente, in qualche caso sono edite parzialmente, sono molto spesso state oggetto di studio. Detto questo, un'altra cosa che forse vale la pena subito precisare è che per il Veneto, insomma, io credo che la dimensione regionale sia abbastanza importante e il motivo è un motivo del tutto chiaro, ovvio, banale se si vuole, ma riguarda proprio quella che è la situazione politica del Veneto di terraferma dal 1405 sotto il dominio veneziano, con l'ingresso quindi conseguente nelle diocesi della terraferma di vescovi di estrazione veneziana. E vescovi di estrazione veneziana, in qualche modo piuttosto omogenei per formazione, hanno tutti una formazione di stampo giuridico e per estrazione sociale. Cosa che è già stata vista, credo, abbondantemente da più persone, mi pare che anche il professor Prodi ci abbia ragionato su. Sono appunto elementi che mi hanno fatto pensare che questa dimensione regionale possa essere una dimensione molto utile, anche perché alcuni di questi vescovi noi li troviamo prima in una diocesi e poi in un'altra e non è possibile separarne le esperienze. Si veda per tutti il caso di Ermolao Barbaro, prima vescovo di Treviso per un decennio e poi vescovo di Verona dal 1454 al 1471. Non è l'unico caso peraltro. Detto questo, allora, un breve censimento delle fonti esistenti. Per Verona tutti conoscono l'esistenza degli atti di visita di Ermolao Barbaro, visita che fu condotta dal 1454 al 58 dal Barbaro in persona e successivamente dal 60 dal suo luogotenente suffraganeo Matteo, vescovo di Tripoli. Questi atti sono stati oggetto di studio, non sono ancora pubblicati, anche se si promette da tempo la pubblicazione presso quel Thesaurus Ecclesiarum, ma è una pubblicazione che appare molto improbabile. Per Vicenza abbiamo delle visite sempre situate a metà secolo, una dal 1452 al 53 e l'altra dal 60 al 62, ma sono dati che poi possono anche sfuggire abbastanza presto. Quello che è interessante sono visite di vicari. Una è di un certo Marino Contarini, Episcopus Cattarensis, che è vicario di Pietro Barbo, e l'altro è di un altro vescovo vicario, luogotenente, no? Che è Antonio Severini da Fabriano, vescovo eugubino. Anche qui abbiamo parziali edizioni e studi. Per Padova c'è una fitta rete di visite pastorali che vanno, di cui abbiamo gli atti, mi fermo solo su queste, che vanno dal 1410-11 in poi e vedono protagonisti da alcuni vicari vescovili e alcuni vescovi in persona. Credo che tutti conoscano, se non altro, il lavoro del JOS a proposito del vescovo Pietro Barozzi, che in qualche modo chiude il secolo con una grande azione pastorale. Dal 1487 al 1507 è vescovo di Padova, dopo essere stato vescovo peraltro di Belluno e Feltre, e procede a una visita pastorale in più tempi, e quindi ha una visita pastorale che permette, cosa che non avviene molto di consueto, cioè anche la possibilità di comparazione all'interno di uno stesso episcopato, di comparazione di situazioni, e non solo di situazioni, ma di azione vescovile. Si tratta quindi di un deposito testimoniale molto importante. Anche Treviso offre un materiale abbondante che parte dall'operato di Ludovico Barbo, vescovo di Treviso, con una vista pastorale che peraltro non è molto densa e ha la caratteristica di soprattutto direi di censimento e di rivisitazione di quelli che sono i luoghi esenti. E poi si passa attraverso Marco Barbo nel pieno del secolo e attraverso ancora una volta l'operato di alcuni vicari. Con questo ho già detto un problemino che viene subito fuori, cioè in definitiva, quando si parla di visite pastorali del Veneto, si deve, io credo, ci si deve interrogare anche a proposito dei protagonisti, e tra i protagonisti noi troviamo molto spesso dei vicari generali, e questi vicari hanno una struttura direi molto solida, quindi il discorso sulla struttura vicario va fatto e va pensato. Va pensato proprio anche perché un altro dato che mi preme subito mettere in rilievo è la differenza che c'è tra queste varie visite anche allo stato attuale delle ricerche. Tanto per fare un esempio, per Vicenza le due visite alle quali ho fatto questo breve cenno sono molto diverse, e la visita del vicario del 60-62, cioè di quell'Antonio Severini, episcopus augubinus, ha permesso con un'operazione che mi pare che sia anche legittima, ha permesso di estrapolare un questionario che sottintende, che è sotteso alla visita, che è indubbiamente piuttosto interessante, se non altro per la diversità rispetto a questionari presupposti precedenti e, per quanto riguarda Vicenza, rispetto al precedente del Contarini. Abbiamo in questo questionario, così come risalta indirettamente dalla fonte, tutta una serie di domande le quali puntano soprattutto su una istruzione di stampo teologico del clero, o un accertamento di stampo teologico, cominciando dalla confessione, no? Da questo grosso tema della confessione, e andando avanti con domande piuttosto impegnative riguardanti addirittura il concetto di accidia, il concetto di alcuni dei vizi capitali, cioè un questionario che sembra andare al di là di quelli che sono i più frequenti scopi delle visite pastorali, e che sembra essere premessa in qualche modo anche a un'azione di istruzione del clero in senso teologico. Quindi, dicevo appunto, sono piuttosto così interessanti queste diversità e questi aspetti che noi troviamo per esempio per una Vicenza. Allora, detto questo, per quanto riguarda l'aspetto le fonti, mi pare di aver già detto quello che c'era da dire, nel senso che le fonti esistono, direi che sono di grande interesse. tenendo presente anche i protagonisti e questa differenza di qualità tra i protagonisti, perché l'aspetto, la caratterizzazione, per esempio, di un Antonio Severini da Fabriano, il vescovo luogotenente vicentino al quale abbiamo fatto appena cenno, e la caratterizzazione della sua visita indubbiamente è una caratterizzazione che merita di essere vista come tale, e altrettanto si può dire per quanto riguarda alcuni vicari che fecero le visite a Padova, in base a studi che sono già avvenuti. In pratica bisogna ricordare Giosse, in questo è quello che ha lavorato di più, laddove ci si incontra su dei vicari che danno un'impronta che è tutt'altro che così di riporto, un'impronta anche personale alla visita. In particolare in questo si segnala per esempio la visita di Niccolò Grassetto, che è vicario di Fantino Dandolo, ma insomma questi sono nomi che possono anche entrare e uscire facilmente. Allora, ecco, queste erano alcune, un'accentuazione che mi sembrava di dover fare, cioè la importanza dei visitatori e in questo l'importanza dei vicari vescovili. Insomma, io credo che sia una delle cose che bisogna tenere presente. Un altro aspetto che deve essere tenuto presente, e direi per quanto riguarda il Veneto, ma come per qualsiasi altra regione, io penso, no? Quello degli itinerari e dei tempi della visita pastorale, no? E qui veramente c'è... Credo sono date delle utilissime indicazioni proprio da questa analisi che in qualche modo è stata fatta per alcuni dei vescovi, e mi riferisco a Ermorò Barbaro, vescovo prima di Treviso e poi prima di Treviso e poi di Verona. Ecco, questi itinerari e questi tempi indubbiamente costituiscono un aspetto che merita di essere studiato, e che ha avuto già qualche precisazione, qualche tempo, gli si è dedicata già qualche nota. Insomma, questi itinerari della visita non sono solamente degli itinerari geografici, ma corrispondono, mi pare dire, delle cose che sono già state dette in sede proprio di suggerimenti di tipo metodologico, quindi casomai si tratta di vedere il rilievo che questi discorsi di tipo metodologico possono avere nel concreto. Insomma, indubbiamente questi rilievi ci sono. Ecco, la faccenda delle visite, quindi del Veneto. Ecco, in pratica lo stato degli studi vede soprattutto un avvio, diremmo, e anche forse non del tutto organico, perché abbiamo studi sparsi, spezzoni, e all'interno soprattutto di alcuni itinerari di vescovi. E quindi evidentemente c'è molto da fare. Siamo piuttosto lontani da quelle elaborazioni che sono state viste altrove. D'altronde io non so neanche se si possa arrivare a fare delle elaborazioni di quel genere. Insomma, mi pongo dei dubbi. Per esempio, la vita di Ermolao Barbaro, che è una visita sulla quale da tempo ci si interroga, è una visita che indubbiamente meriterà una volta l'altra di essere pubblicata integralmente, e quindi credo che ci troviamo di fronte a uno stato delle fonti, proprio per queste fonti quattrocentesche, forse un tantino diverso da quelle che sono le fonti dei tempi successivi, no? Ecco, in questo senso direi che allora è abbastanza importante vedere così alcuni temi che possono emergere, e questi temi, vederli. Ecco, per quanto riguarda il Veneto, proprio anche in collegamento di città con città, perché in definitiva, per esempio, se si pensa al Barbaro, che è un vescovo di indubbio grande interesse, non si può vedere l'episcopato del Barbaro di Treviso disgiunto dall'episcopato di Verona. Insomma, si tratta di due periodi che vanno visti insieme, con un itinerario che va visto insieme. Ora, per quanto riguarda i problemi, problemi evidentemente, io adesso non so neanche qui come ci si possa infilare nei discorsi che sono stati già fatti, quindi sono un po' in imbarazzo, perché indubbiamente... Sì. Il problema appunto è quello della visita, sì. Certo. Ecco, i problemi indubbiamente, intanto io direi per quanto riguarda appunto una regione come il Veneto, la relazione tra i vari episcopati e i vari tempi va fatta, insomma non mi pare che si possa, ecco, quindi per esempio parlando di Ermolao Barbaro c'è piuttosto chiaro che deve essere visto l'episcopato trevigiano e anche quello veronese, insomma, no? Mi pare che questa sia una cosa sì, del tutto ovvia. Per quello che riguarda così le problematiche, direi... Per le problematiche, ecco, c'è questo intanto rapporto tra le varie... Mi accorgo di aver fatto una grande confusione di carte, scusate, ma avevo preparato delle carte e vedo che qua c'è tutt'altra roba. Non lo so bene che cosa sia successo. Cosa che... appunto, cioè, avevo fatto delle cose che poi sono andate a finire chissà dove. Beh, sì. No, e chissà cosa ne ho fatto, vabbè. Perché avevo sistemato un po' di cose e dopo... vabbè, insomma, sentite, bisogna qui portare un momento di pazienza e... Non so che cosa ne ho fatto, insomma. Allora, andiamo un pochettino, purtroppo, a... possiamo dire a braccia. Allora, si diceva, intanto quest'area veneta, no? Ecco, poi si diceva, per quanto riguarda i rapporti, per esempio i rapporti con i sinodi, che sono un discorso estremamente importante per il Veneto, come per qualche altra, come per qualsiasi altra, per qualsiasi altra regione, insomma, no? Ecco, per quanto riguarda poi il Veneto, per quanto riguarda in particolare la zona di Verona di cui io mi sono interessata, direi che insomma i problemi sono così, un po' se vogliamo i problemi consueti, ma c'è una qualche accentuazione particolare di alcuni aspetti. Avevamo detto un po' queste diocesi, no, di cui abbiamo parlato. Posso esemplificare, se vogliamo, un momento con proprio l'episcopato di Ermolao Barbaro, al quale tra l'altro ci si deve, si spera, insomma, del quale si spera che vengano fuori delle cose migliori di quelle che sono venute fino adesso, no? Ecco, il rapporto per esempio tra vescovi e sinodi è un rapporto che va studiato ed è una cosa che tra l'altro si comincia anche un pochettino a fare. Problemi aperti, mi accorgo che sto facendo un po' abbastanza di confusione avendo perso, come si dice, la le carte, no? sotto mano. Ma, e allora portiamo un momento di pazienza e cerchiamo un pochettino di ricordare. Allora, si diceva delle fonti e si diceva appunto di questi capitula visitationis che vengono fuori proprio dal contesto stesso delle fonti e sono piuttosto interessanti, no? Noi abbiamo le biblioteche a questo proposito dei vescovi, nel Veneto ce ne sono alcune, sono importanti e sono interessanti anche se evidentemente si tratta di opere che dopo bisogna applicare, sono anche un po' astratte, no? Per quanto riguarda gli itinerari, anche gli itinerari di visita per figure come il Barbaro o per altre figure sono stati studiati e indubbiamente hanno un buon interesse proprio per vedere il rapporto tra Pieve, che si indovina essere in una fase di passaggio, in una fase un po' così, perlomeno critica sembra, nel corso del 400, e Cappelle. Ci sono dei dati indubbiamente di grande interesse a questo proposito collegati con i mutamenti anche insediativi, quindi già nel 400 noi troviamo degli elementi che possono essere estremamente interessanti per quanto riguarda proprio la dinamica delle popolazioni. La Pieve che si difende con la complicità della comunità civile e la località minori che si cercano un'autonomizzazione, cercano di un'autonomia. Ecco, rapporti tra Pievi e parrocchie quindi sono uno degli elementi che saltano fuori e collegati con un dato di fatto, con una domanda religiosa che risulta in genere già atomizzata. Questo mi riferisco soprattutto ai risultati che vengono dalla visita di Ermolao Barbaro. E quindi viene fuori tutto il problema della domanda religiosa delle popolazioni che già nel 400, e io ovviamente sto parlando solamente di visite del 400, è una domanda in movimento. Ci sono alcuni aspetti che da questo punto di vista sono estremamente interessanti in una visita come quella che è forse la più organica per il pieno 400, quella di Ermolao Barbaro, alla quale mi riferisco. Ecco, un capitolo a sé costituisce la visita della cattedrale, lo si capisce bene perché, insomma, no? In quanto così c'è un'autonomia tra cattedrale, capitolo e vescovo che qualche volta si fa sentire, e quindi il problema dei rapporti tra capitolo e vescovo è uno dei problemi che indubbiamente salta sul tappeto. Alcune caratteristiche un po' particolari di questo insieme di visite è per esempio per Verona la predicazione del vescovo, cioè al di là di quella che è una ricognizione che potrebbe sembrare semplicemente disciplinare, ci sono degli elementi che possono far pensare a un'azione pastorale più intensa, e questo credo che meriti di essere sottolineato. Il vescovo Ermolao Barbaro predica, e questo è un aspetto che non è del tutto consueto. Noi sappiamo che ancora un Ludovico Barbo a Treviso, che pure era un notevole personaggio, delega la predicazione ai francescani osservanti. Beh, questo si inserisce anche nel fatto che tra il Barbo e i francescani c'era un bel legame, insomma, benedettini francescani in quel momento osservanti erano molto molto legati ed erano molto vicini. Un'altra cosa che può essere messa in evidenza, proprio io direi che da queste visite salta fuori, mi riferisco soprattutto, penso per esempio a visite come quelle di Ermolao Barbaro o come quelle del Barozzi, salta fuori una linea pastorale che io credo vada approfondita. Tra l'altro qui c'è anche il discorso della complementarietà delle fonti, nel senso che per esempio per quanto riguarda proprio il Barbaro, bisogna bisogna, accanto alla visita pastorale, aggiungere, bisogna mettere accanto alla visita pastorale delle altre fonti, c'è un sermonario, e indubbiamente vengono fuori delle cose che danno un'anima maggiormente pastorale all'azione del Vescovo, che qualche volta rischia di sembrare semplicemente disciplinare. Questi aspetti, direi, di tipo pastorale, che già un po' la ricerca nel territorio veneto ha messo in luce, forse magari anche con un tantino di esagerazione qualche volta, ma che vanno precisati e sui quali indubbiamente molte cose dicono le visite di cui così diamo un minimo cenno. Ecco, direi, per quanto riguarda caratterizzazioni venete, mi fermerei un pochettino su queste cose perché sì, forse non vale la pena andare molto oltre, il mio è semplicemente un intervento più che una relazione. Per quanto riguarda caratterizzazioni, quindi direi questa specie di omogeneità di fondo che deriva dal fatto che questi vescovi sono per lo più veneziani, hanno una formazione di tipo giuridico, hanno però, ecco, lì non bisogna semplificare perché per esempio nel caso del Barbaro io ho l'impressione che ci sia non semplicemente una mentalità di tipo giuridico, allora bisogna approfondire, insomma, proprio anche il discorso della predicazione, per esempio, in questo senso mi sembra un discorso piuttosto interessante. Quindi altre caratteristiche che forse varrebbe la pena mettere in evidenza. La progressione, se c'è nei confronti del mondo laico, di attenzione nei confronti del mondo laico. Ecco, noi troviamo quasi assenti nel corso del 400, pur in episcopati che hanno una certa carica pastorale, troviamo quasi assenti le confraternite, no? Mentre troviamo presenti gli ospedali, nel momento per esempio di Ermolao Barbaro questo c'è, ma troviamo presenti gli ospedali gestiti da confraternite e non tanto l'attenzione alla confraternita come fenomeno laicale. C'è una progressione in questo senso che credo meriti attenzione perché invece con le visite ultime del secolo, quelle del Barozzi, che mi sembra abbiano veramente meriti, no, di essere guardate con moltissima attenzione, noi troviamo un'attenzione sistematica nei confronti delle confraternite come fenomeno di aggregazione e come fenomeno anche di formazione laicale. Ecco, questo direi che è un aspetto che mi sembra indubbiamente molto importante per questo gruppo abbastanza cospicuo, se vogliamo, di visite venete e che deve essere sottolineato. Un altro aspetto che credo non sia semplicemente solo delle visite venete è che ne viene illuminato la campagna, insomma il mondo contadino, mentre per quanto riguarda la città abbiamo scarsi apporti. Nella città il vescovo agisce secondo altri strumenti probabilmente e quindi non c'è molto sulla città, mentre per quanto riguarda il contado, per quanto riguarda il mondo della campagna, ci sono degli apporti notevoli che vanno indubbiamente valutati con la dovuta attenzione. È un aspetto sì, tipico di queste visite venete che troviamo un po' in tutti gli episcopati. Sono appunto degli aspetti che mi sembra che meritino attenzione. Per quanto riguarda il resto del mondo religioso, credo che sia abbastanza comune ritrovare che sono oggetto di visite i monasteri femminili. Per esempio Ermolao Barbaro visita dei monasteri femminili con delle prospettive di correzione che meriterebbero forse più attenzione di quanta non se ne sia data finora. Invece il resto del mondo religioso resta fuori dalla visita, anche questo credo che non sia del tutto nuovo, insomma, no? Per cui, insomma, per quanto riguarda città contado, diremmo il contado indubbiamente ha delle grandi possibilità di di riscoperta, o perlomeno di riscoperta, di una conoscenza sempre filtrata, perché le deposizioni, voi lo sapete meglio di me, insomma, le deposizioni dei testi sono ovviamente sempre un pochettino soggettive, anche se dobbiamo dire qui abbiamo ancora un periodo in cui ci sono delle deposizioni testimoniali di laici, di gente che viene dal contado, che viene dalla campagna e che parla, no? Quindi è già un dato abbastanza interessante. Ecco, direi in modo un po' disordinato, tiravo fuori queste cose perché mi sembravano abbastanza interessanti, con un'ultima annotazione che può riguardare per esempio il mondo confraternale, che indubbiamente è quasi assente, si diceva, no? E solamente con il Barozzi, alla fine con Pietro Barozzi, quel vescovo che chiude un po' l'epoca del 400, con degli accenti che potremmo dire veramente precorritori, no? E comincia a diventare un'attenzione così precisa e così sistematica. Io non so, penso di essere stata abbastanza disordinata, perché devo dire che il fatto di aver perso quella traccia che avevo fatto, non me la ritrovo tra le mani, mi ha messo un po' in imbarazzo, però forse sarebbe bene che casomai ci si parlasse insieme, perché voi sapete che succede così, no? E allora non mi scuso, ma no, credo di aver fatto un po' di... facciamo ripetere ancora. Mi dispiace proprio, ho fatto una confusione di carte qua, ma...